per queste donne disponibili. Ma perché allora si lamentano tanto? Non è che non ci sono, ce ne saranno tanti. Non sono all'altezza ormai del livello di sicurezza che ha una donna. Una donna ormai si sente tranquilla, non ha più bisogno di un uomo che la protegga, che le tenga la mano, che la difenda. Vuole un uomo per essere allegra, per stare serena, per divertirsi, per poter sognare. Perché non trovano questi uomini? Non trovano questi uomini perché secondo me non è il target che cercano loro è diverso, loro cercano una persona diciamo per potersi divertire. Questo non c'è niente di male, perché anche noi cerchiamo. No, assolutamente non c'è niente di male, però dico, voglio dire, fanno delle distinzioni, perché se trovano quello che ha due soldi, ok, va bene, se invece trovano quello, povero Cristo, che va a timbrare il cartellino, allora non va bene. Di queste ne conosco tantissime, perché tra l'altro. Mi spieghi bene, no, perché lei sta facendo un'accusa ben precisa alle donne del Fuga. Farlo chi sta, che andate a cercare soltanto della fascia alta di reddito, trovate, non so, dei perfetti commercialisti, degli ottimi avvocati, dei meravigliosi manager, che chiaramente sono uomini senza palle, perché tutta la loro emotività la buttano nel lavoro, sono talmente soddisfatti e tirati per quello che hanno fatto il giorno, che la sera di voi non sanno che farsene, è così? Guardi Nicoletti, secondo me, io gli faccio una citazione, il tacco è inversamente proporzionale all'intelligenza. Loro, io vedo delle donne, io lavoro in una discoteca, vedo donne rifatte con le labbra canotto, le tette rifatte, il culo rifatto. Io non, sinceramente sono io che mi rifiuto di avere una donna così, ha capito? Perché lei è preda delle cacciatrici di non farlocchi stanchi? Ma guardi, io non ho mai avuto questo problema qua, secondo me si sono inventate questa cosa qua, ma io penso che gli uomini sono assolutamente diversi da come le descrivono questi signori. Allora, qua. Michele dice, voi dite farlocco stanco, andate a pescare una fascia di uomini che ormai appartengono più a un genere diverso, non è più l'uomo di una volta. Se voi abbassaste un attimo gli occhi e cercaste un po' meno potere d'acquisto facile, perché poi vi piace se portate fuori, che questo paghi, che abbia la bella macchina e tutto, solo farlocchi trovate. Chiamano soltanto uomini, avverto, 800 24 00 24, sembra che chiamino soltanto uomini. No, ecco, Nicoletta, buongiorno. Sono una donna, buongiorno. È del Fuga lei? Allora, guardi... È iscritta al Fuga? Non sono iscritta al Fuga, ma mi iscriverò subito. E volevo solamente dire sinteticamente due concetti. Intanto che per 10 anni io sono stata in preda dei farlocchi stanchi. Adesso fortunatamente ho trovato un compagno ormai che non è stanco, che ha voglia di condividere con me. E qual è la differenza? Mi dice la differenza sostanziale fra il compagno e il farlocco stanco che ha frequentato per anni? Guardi, il farlocco stanco che ho frequentato per anni è quello che avete descritto voi, cioè uomini che non hanno più voglia di mettersi in gioco, mentre le donne rimangono, oltre l'età di cui lei parlava, cioè 55 anni e oltre, desiderose di mettersi in gioco e di vivere la propria vita. Ma mettersi in gioco vuol dire, no scusi, perché io sarò farlocco stanco, ma questa è una frase che aleggia, mettere in gioco di uno che vi sposa, che si mette, che vive con voi, che si dà anima e corpo a voi, no, mettersi in gioco. Assolutamente no, assolutamente no, nessuno vuole più questo, nessuno vuole e che più volete? Questo. Mettersi in gioco che vogliamo in questa maniera così bella, ride, lo sai, lo già mi sembra che lei sia un farlocco molto stanco. Ma è signora, ho 60 anni, ormai ho dato, sono stanchissimo. Anche io ne ho 53, quindi lei ancora magari qualcosa trova, io ormai... Sicuramente. Quindi lei si è ma lei si è astenuta? Allora, lei si è astenuta nel frattempo? Io mi sono molto astenuta perché quelle 3 o 4 volte nelle quali non mi sono astenuta ho trovato farlocchi stanchi che non hanno voglia di fare niente, che non significa sposarsi o andare a vivere insieme, significa avere voglia di condividere un pezzo di vita con un'altra persona. Tutto qua. Si chiama mettere il cappio a un uomo e avercelo, portarselo in casa, questo è. No, detto in parole assolutamente, no. Guardi, e qual è la differenza? Guardi, io ho scritto anche un libro sulla dipendenza affettiva, per cui la differenza è quello. Poi se uno è dipendente affettivo, che può essere donna o maschio, allora sicuramente voglio... Va bene, però è importante, lei intanto mi sta ampliando il dibattito, dando altri elementi. Parla di dipendenza affettiva, parla di uomini che non si mettono in gioco, non si impegnano. Il farlocco stanco è soltanto quello che non si impegna. 800 24 00 24, a tra un istante. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore.